5G. Ascolta e rispondi. Che cosa facevi ieri mattina alle 7? Facevo colazione. Che cosa proponevi agli studenti quando sono entrato? Proponevo di rimandare l'esame. Che cosa traducevi quando c'è stato il blackout? Traducevo un articolo. Che cosa bevevi quando ti ho visto al bar? Bevevo un aperitivo analcolico. Che cosa ponevi in ordine quando ti ho interrotto? Ponevo in ordine gli appunti. Dov'eri quando ti ho cercato? Ero in ufficio. A chi scrivevi quando sono arrivato? Scrivevo a Giacomo. Che cosa guardavi prima? Guardavo una foto nel giornale di oggi.